Grazie Silvio perché ci fai sperare in un mondo migliore, perché abbiamo toccato il fondo e proprio più in basso non si può andare. Grazie Silvio perché anche quando tutto va male, noi pensiamo a te e tutto quanto ci sembra migliore. Siamo un po' rincoglioniti, lobotomizzati, sempre sorridiamo, ma in fondo è meglio così, ci piace ridere, perciò ti votiamo. Nel mondo si chiedono tutti come sia possibile che uno come te sia così amato e adulato da un'intera nazione. Agli scettici comunisti, ai sinistrorsi facciamo cucù. Perché finché Silvio sarà il nostro sogno, non finirà più. Stiamo vivendo un sogno e il sogno è diventato realtà. Finalmente è stato approvato il reato di clandestinità. Sognavamo tagli alla ricerca, alla scuola e alla sanità. Ronde condivise naziste per le strade delle nostre città, giornali, telegiornali, case editrici, noi sognavamo, tutte nelle mani di un unico, illuminato, grande sovrano. Grazie Silvio perché, grazie a te, ora si sa che l'inferno esiste davvero e perciò anche il paradiso da qualche parte esisterà. Grazie Silvio perché ci fai sperare in un mondo migliore, perché abbiamo toccato il fondo e proprio più in basso non si può andare.